Caracumari, cadi so venuti, Caracumari, cadi so venuti, e per mille anni siali buon trovati, e per mille anni siali buon trovati. C'è vinni anno e vinni resti tempi, c'è vinni anno e vinni resti tempi. Pescina mi donasti buono ienco, pescina mi donasti buono ienco. C'è vinni anno e vinni de Natala, c'è vinni anno e vinni Pescina mi donasti nomayala, pescina mi donasti nomayala. Chi pozza fare dei belli giorni, chi pozza fare dei belli giorni. Quanto c'è il pampi negli assi contorni, quanto c'è il pampi negli assi contorni. Chi pozza fare dello bello voglio, chi pozza fare dello bello voglio. Quanto ne passa il nuovo pezzo di sfoglio, quanto ne passa il nuovo pezzo di sfoglio. Chi pozza fare dello bello vino, chi pozza fare dello bello vino. Quanto ne sbarra tagina per lino, quanto ne sbarra tagina per lino. Chi pozza fare dello bello rano, chi pozza fare dello bello rano. Quanto ne smarca cuore corigliano, quanto ne smarca cuore corigliano. Chi pozza fare dei belli festi, chi pozza fare dei belli festi. E quanta Roma c'è porte e finisci, e quanta Roma c'è porte e finisci. Chi pozza fare dei belli anni, chi pozza fare dei belli anni. Milli Natale, cento capodanno, milli Natale. Le cento capodanno, le vada donna de su bianco letto, le vada donna de su bianco letto. Sinnuda fico mino